dentro, cosa c'è, cosa c'è? Stanno fischiando. Buonasera, ben alzato. So che stavo fischiando. C'avevo la panacchina accesa. Quello gatto famoso, quello piccolino. Va bene, va bene, avanti che vuoi entrare. Attenzione che vuoi entrare. Se ne ha voluto nessuno entrare. Signor Battisio, buonasera, buonasera signor Marì. Buonasera a tutti, ben entrati, belli e brutti. Copiare il pappagallo, buonasera, quella è la parola mia. Ascolta, vedi un po', io faccio un quarto passaggio con l'altra radio, se mi ascoltate. Io qua ti ascolto benissimo. E guarda che c'è anche Antonello, avanti. Ciao Bacchisio, ciao Tone, salutone, salutone. Cantone, Cantone, Antonello, buonasera. Aspetta che faccio la commutazione, voglio provare se il lavoro che ho fatto va bene. Va bene. Antonello, non mi ascolti qua? Bene, bene. Non si scende. Che fischio. Signor Bacchino, stai uscendo. Oh signor Marì, comunque sta andando bene. Guarda che non sto uscendo da qui. Cos'è Marico, se non scende adesso ti ascolto avanti. Adesso sei uscendo benissimo, ma poc'anzi nulla, ciò di importante. No, perché è la cazzo che non serve. E non so, è il microfono che ho rimodernato, però non ci sta una cazzo, sono delle piccole, sono troppo piccole, non danno nessun valore. Ci vorrebbe una con un diametro di almeno di 2 cm per andare bene. Hai capito? Dopo non trovo fuori nulla. Sarebbe il microfono che non ha dottore. Che microfono è? E chi è questo bruttotto che sta modulando? Boh. Avanti, a me. Aspetta, che l'altro il microfono c'è, ma ci sono usci in radio. Meglio di quello, di questo palacchino qua, che lui sono normale, esce basso. E l'ho dovuto cambiare la capo, l'ho dovuto cambiare. Ho capito, benissimo. Avanti, Tore, buonasera, ben entrato. Io sei lontano dal microfono. Ma giammai non ti intendo. Signor Bacchi, come mai non funziona la capsula? E come va adesso, Tore? Tore, va bene adesso? No, oh, non da davvero, sei scendi, sei basso. Ma basso di cosa? Di radio o di segnale? Di radio, il segnale è buono. La radio, ti sento lontano dal microfono, deve essere come ti avvicini, no, non entra. Prova adesso. No, oh, sei sempre lontano. Sempre lontano. Se c'è il volume basso, io lo sento bene, mia. Ma io lo sento benissimo, io. Forse sei tu che c'hai il volume a zero, perché sei abituato a sentire Marchisio che è molto più alto di Marino. Ma chi io come mi ascolti? Io Marino lo ascolto benissimo, limpido e chiaro. E sto controlli qualcosa tu perché sei tu, eh. Avanti, va chi. Che cosa stai usando adesso Marino? Legge 9 sto utilizzando, legge 9. Ah, buon pomeriggio. Lo stai andando benissimo, benissimo. Anche a Toledo non sta scherzando stasera, un po' di eco c'ha, ma va bene. E la pompa Toledo, avanti a Toledo. Ah, Batti, sto usando quelle Delta X40 Pro, quello che c'è la carina uguale, 98 euro. E con 2,5 watt esce bene, se li metti 6 watt soffu tutto, non esce più. Devi lasciare 2 watt. Tore, adesso non ti ascolti, Tore! Va ragione, voi dite a me che raccolte di me, io non raccolto. Ma non so che non ti ascolta. Ma chi non ascolta, sì, tu, sono io, Ma tu non ascolta, molto, non so. Avanti, ma chi? Aumenta un pochino, Marino, perché purtroppo non ti ascolta. No, non ho capito, ma aumenta. pure cancello. Sorello, sono impegnato. Ma non ascolti per niente, hai detto a Marino. Basso, manco ne intendo, se delle cose lo superano quelli con il QRL. Addirittura, pure sta uscendo bene, a momenti erano tutti i passaggi a basso, però non si sentiva bene. Vediamo poi se è rientrato, Marino, se è rientrato. E invece sono rientrato, ma solo in questo passaggio, fuori non mi sentono, molto solo io. Ma chi si ascolti bene, si ascolta solo io, io ti ascolto bene. Torre non ti ascolta per niente. Antonio ti ascolta. Dagli mezzo giro di cacciavite col microfono a vedere. Ma io lui. Dai, prova a vedere, Torre, l'ho sentito adesso. Appena raggio inteso, appena più alto. Come che se fosse lontano, ma molto lontano dal microfono. Io sto volando regolarmente come. Dai, guarda. Guarda che devi avere il prossimo, anche lì è basso tu, senz'altro, perché aspetta, ho cambiato baracchina adesso, sono con Jesus, con l'857D, e c'ha ragione, controllati un pochettino il coso, guarda se i Mike G metti la manetta. Ma a me sei cedo pure a te? A te Marì. Adesso c'è manetta. Adesso ci sei, adesso sei perfetto. Ma ti intendo, aspetta, ancora vabbè che ti inditi, andare, vabbè, se per riprendere c'è il bacchì. Ehi, adesso l'ascolti, adesso perché ha accelerato. Adesso ho messo questo acceleratore. Andiamo voi, andiamo, poco, tanto lei, non c'è più il giorno. Ho capito baracchino, me ne sono accorto quando ho messo l'857D, capito? C'aveva ragione Tore, c'aveva ragione, ti ascolto benissimo. Perché nell'altro, in quello omologato che ho preso, questo ascolto benissimo, la radio 5. Invece in questo è un pochettino più basso. Tore, come ascolti con l'857D tu, bene? Abbastanza bene ti ascolto, a voglia. Ce ne fosse. Vabbè, sono contento. Almeno intanto lo uso. Dato che è sempre fermo. Adesso già lo uso un pochettino. L'apparato. Dato che se sono in cameretta adesso lo posso usare. Ma prima era in un salone, senza antenna dalla tappata, potevo usare solamente in VU e basta, capito? Invece adesso lo posso utilizzare in tutti i modi, cioè tre antenne piazzate. Ho capretto, va benissimo, anche una storia della pulizia. Avanti, c'è il gigante. Via, è così. È così l'imbruglio. Va benissimo adesso, arriva a bomba. Io è che non esco basso da. Allora dove posso trovare una capsula? Ne ha posato? Che capsula ti serve? Una capsula normale mi serve. Almeno di 2 cm. Ma quello da 600 ohm del microfono normale ti serve? Il microfono normale. È un microfono a tavolo, però normale. Che microfono è? È l'MP4. Ma c'è scritto su questo microfono, c'è scritto Pond 211. Poi c'è Monocore. Offone, non c'è scritto altro. Ma chi? Quello era un microfono di negozio. L'hanno adattato all'apparato, l'hanno adattato. Ecco cos'è. Forse la capsula che non serviva. Capsula non serviva per niente. No, ma tutto modificato, quelle cose, quelli di interruttori a lamelle, non funzionava. Allora gli ho messo un interruttore di un microfono normale in verticale. È collegato tutto. Però la capsula sono di quelle piccoline che non vendono un pippero. Forse vi siete stati modulati, Diego, Antonio, non abbiamo capito nulla, ma sto dicendo deve andare qua a Chisio, lì a Città Mercato, adesso questo che ha fallito. Va lì dove sono le casse, smonta il coperchio di sopra, si porta via la capsula. E così la resta lo subito? Sono uguali, ho capito quale capsula è. A me mi è rimasta in mano quella capsula lì, la verità, perché è una capsula che va, è alimentata a 24 volt, dalla, hai capito? In pratica, cioè non è che sia alimentata a 24 volt, però il circuito sì, il circuito dove c'è il pulsantino e cose del genere, quello è alimentato a 24 volt e monta una capsula normale che è 2 cm di larghezza, nera e alta, mi sembra, se non mi ricordo male, 2 o 3 cm, non di più. Oh, un attimino, io sto chiudendo, stavo sulla scheda, niente, proprio zero riporto zero, un microfono normalissimo, come quello un palmare, invece di essere palmare è da tavolo. Già ti ho capito già. Bisogna buscare una capsula da 600 ohm, piccolina, se si trovano da Fusaro, te la prendi, ed è perfetta. Ciao a tutti, ci sentiamo allora, buon credito, buon tutto, alle prossime. Ok, ciao a tutti, ben sentito, a domani. Avanti, va chi? Ciao a tutti, ciao a tutti, buona serata, se ne sarà già andato, se ne sarà già mangiando, a domani. Hai capito? No, io ho messo una capsulina, sai di che cosa? Di un portatile, però non rende niente. Non rende niente, no. Io ho demontato quello che ho io, ZX40 Pro, una capsula di un citofono, figurati. Ma è piccolina, non è che sia grande. Adesso vedo se riesco a buscare qualcosa io, da qualche posto. Se riesco a buscare te la do, una di quelle capsule lì, già ho capito come è fatta. Sto uscendo. Sta provando col microfono con la capsula, sta provando. Non uscirà mai quel tipo di cose. Non vanno bene quelle. Ci vuole una capsula sua, la 600. Mi siete sotto modulati, Bacchi, con l'abonamento. Avanti, Bacchi. Cioè, bisogna prendere e sbattere la terra, non serve, non rende niente. Prova. 1, 2, 3, prova, avanti. 9 più 10. E la radio da soli, sta benissimo, va. Avanti, Bacchiglio. Il più forte sono io qua, messo taceto. Tutta la sera l'ho messa sotto peperoncino piccante. Vediamo un po', Antonello, come sta uscendo. Sì, 9, e più anche tu. Va, adesso ho portato l'antenna... quella è VHF verticale, Marì, stazione del 027. Sono sceso giù l'altro giorno a terra e ho sceso giù anche quella delle cose e l'ho di nuovo ricostruita, quella per il wifi. Figurati tu che c'era, mi è rimasto in mano, mi è rimasto il cavo in mano, stavo spostando il cavetto, adesso me l'ha sceso tutto in mano. Questo non può essere, controllo, non si può smontare, non puoi aprirlo. Ho dovuto togliere il silicone da sotto, che c'è un foro sotto, e sotto c'era il cavetto manomale e gli ho saldato il cavetto su originale, poi la massa gli ho collegata esterna, gli ho fatto la saldatura e gli ho collegata alla vite, ed è perfetta. Come si mangia tutto? Avanti! Gigante chiede il permesso di QRT perché devo prendere le medicine in orario. Bene, ciao Malice, siamo, buona serata, sotto in casa. Ciao Antonello, buona serata anche per te. Ci sentiamo, vai vai, riprendi Antonello. Ehi, ciao Bacchi, ci sentiamo. Alle prossime, stavi bene. Alle prossime, avanti Marì. Ok, guarda, ci sentito qualcuno la tua concorrenza. Bene, ciao Bacchia, domani se concilierà, poi se è scompreso se picchiamo, bene, avanti chi vuole entrare, attenzione. che vuole entrare? Sì, la mia coccoletta l'ho preso. Sì, ho scelto il ciupo, sentissimo. Ah, ah, io pensavo che doveva solo mutuare, anche perché c'ho il TBV 2002 qua a casa, e poi c'ho anche l'altro giù, in casa di Giovanna. Il TBV 2002 ce l'ho meno funzionante, se c'è tutto dritto li tira fuori. Così è stato per via, no? D'accordo, quando vuoi passa, è stato riaperto oggi mica, Gabriele, quindi quando vuoi ci vediamo qua. Invece va di sotto, si è soltanto, invece è chiuso per fede, già fatto veloce. No, no, qua è aperto stamattina, c'era Federica stasera, c'era, quella, la biondina c'era, no, la no, Tiziana, quella con i capelli castani. No, no, no, ho già capito, sì, quella buona, perché ho visto, non è, cioè, c'è parlato di connessione, no. Già l'ho visto, perché è chiuso per fede. Quindi magari devo dire che non la voglio lavorare. Vediamo se anche lui i soldi ce li ha, con tutte quelle cose che c'è in affitto, cosa gliene frega a lui aprire il bar? Io so già, i soldi già ne ha. O comunque Andrea li ha in gamba comunque, io non ho due problemi, anzi. Ogni volta sono io a organizzare, sono, ogni volta che mi prende, entra e mi fa ancora, sono io a lui, ho capito? Ciao, ci sentiamo domani, ciao. Guarda se mi senti questo passaggio, 1, 2, 3, prova, attento lo jingle. Ehi, auguria, avete da me? Certo ti sento. E tu come mi senti, bene, sì? Auguria, ma io sono piccolino, io sono davanti a me gomma. Io sono davanti a me gomma, e sono come questo mondo, che va benissimo. Aspetta che spengo il telefono. E dai, stacchi. Parla un attimo, Marì. Prova in questo passaggio. 1, 2, 3, prova, avanti. Allora, controlla il microfono che stai appena innescando. Esco il microfono originale, sto usando. Guarda adesso. Ecco, schiaccia il portante senza modulare. Ok, prova a parlare. Prova in questo passaggio, 1, 2, 3, prova. Va bene, la radio 5 non è amplificata come l'altra, però si sa, sta usando il palmare suo. Sì, e poi se vuoi ci metto questo qua. Fai un passaggio più lungo. Con questo, no, fischia, Mari, ammazza il mitichino un po' con te. Sì, è troppo, devi abbassare il mitichino. Non è il mitichino, è lei quello. È l'eco, abbassa l'eco appena. E sì, troppo poco. Cazzo l'eco, dai. Comunque va bene, dai, ho 5, va benissimo, dai. La radio va bene, se la giudizio va bene la radio. Quello là che c'ho cazzo, dai. Ok, dai, dai, mi stavo chiamando, dai. Se non c'è l'intelligente, la cava in cassa. Ci sentiamo, dai, ho andato. Ciao, a domani. Ciao Mari, ci sentiamo. Comunque la radio va bene, la modulazione va bene. E beh, pompo. E beh, Cinco, come stai facendo di bello? Sì, sono entrato perché dovevo provare una radio marino, gli ho detto a Cinni, che provo a vedere come sta uscendo. Perché i geni hanno detto che stavo uscendo male, invece io lo ascoltavo bene. Sì, già ce l'ho poco fa, infatti. Adesso già va bene. E ci ha messo lontano un po' la microfono. Tu solleva un po' il mic e basta. Poi va bene, quel barattino vuole conosciuto me. Perché c'è l'eco, c'è il delay, se tu metti un sacco l'eco non si capisce più nulla. No, ma va bene, ce l'avevo anche io la Senova. Ce l'avevo anche io quella radio lì. E quella radio lì si va bene, non si va bene. Se gli metti un bel microfono, un MB più 4, non sai come esce. Ce l'ha, ce l'ha. Gli ho dato io. Appunto. Se mette quello lì e esce una canonata. Ma lui ce l'ha attaccato nell'altro, nel capo ce l'ha agganciato quello là. Rifà gli altri attacchi, rifanno uno spinotto che lo può usare sia uno che l'altro. Io l'ho già fatto io. E non è tratta. Vabbè, ce l'ha agganciato nel capo, non è che sta sempre attaccando il microfono. Io ho fatto io lo spezzone, lì, qua a casa. Tu dove sei Antonio? A casa? Sì, sto usando l'857D. Sto uscendo bene. Tu come mi ascolti a me, Massimo? Oh, benissimo, benissimo. Poco fa c'era qualcuno che stava parlando in NDPD, sul canale 1. Io ho fatto ciuffucciù e è sparito, cazzo. E no, canale 1 del PD. Mi l'ho accesso per sbaglio perché ho trovato un portatile che avevo conservato io di quelli piccolini lì, di quelli che hanno un watt e qualcosa del genere. Ho sentito questo qua entrare, ho preso, ho risposto con quello grande a 5 watt, come sento ciucciù è parito. No, questa qua però la modulazione te la fa una bella compatta, oh, attore. Questa qua te la fa bella la modulazione, una bella radio. Sta usando quello originale suo, sì. Quello originale è nero con tre pulsantini, uno al centro e due fianchi, cioè uno a un fianco e uno all'altro. E cosa? Il microfono, c'ha tre pulsantini, glielo serve l'originale. Sì, lo so, è quello originale, stai usando quello normale, senza amplificazione. Esatto, bravo. E sta uscendo bene. Sta uscendo bene, va benissimo. A voglia, a voglia. E manda escono ancora meglio, mi manda spingono ancora di più. Per dire, per questo anche in coso, in PMR pompa un bel... Cazzo, in PMR sono le sue, sono radio fatte apposta per quelle frequenze, sia in PMR, sia in banda e via dicendo. Ho staccato la cosa adesso, la bibanda ho staccato l'altro ieri, adesso tutto ora c'è 1-1, qui adesso la farà bene la mantova, è perfetta. E non potevo ripararmi lineare, cazzo. Fa cura a me quando l'ho attaccata con l'antenna, cazzo. Quando sono andato a... mi sono messo a pompare, cazzo, mi ha fatto dietro di stazionarie. Mi ha becciato una resistenza e mi ha bruciato. Cazzo, metto una garuffiaggia senza lineare, cazzo, pompi. Cazzo, nella zona dove sei tu a Puglia. Che va bene, è tutta bici. Vabbè, ma mi serve lineare, non è che non mi serve. Infatti ce l'ho io, capito? Uno l'ho fatto a Giovanna, l'altro me lo sono fatto io. Ma lì quanto ti arriva te, Antonio? 9 più 20. Cazzo, anche una cazzo attaccata alla pera. Arriva bene, ci mancherebbe che mi ci passa a voi. Attaccata alla pera, io quando l'ho messa lì pensavo che non uscivo, quando l'ho messa in giardino pensavo che non uscivo attorno. Infatti ho detto se non esce figlio, magari ne vendo tutto. Infatti poi alla fine ho fatto un paio di controlli, mi sentivano un po' dappertutto. E tu prendi, ci metti un palo agganciato lì all'albero, una via 27L e sei a posto. Quanto un palo agganciato all'albero? Come ha fatto coso, Gio Maria ci ha messo un palo attaccato all'albero delle olive e l'antenna sopra. Ma io non faccio una pianta ossiaccia, no? Io piante, quella pianta più alta è la pianta delle noci, però la pianta delle noci lo supero io, perché ci ho messo un tubo di semente. E beh, ma stai dicendo? A posto di quell'antenna che ci hai messo ti pigli una via 27L a seconda mano, quanto ce ne sono a stanza, è pieno di antenne di baracchia, basta andare a staccarne qualcuna e te la porti a casa e te la piazzi di lì. Cosa me ne porti, ma chissà che vuoi, ma cazzo, io già devo piazzare tu gli altri di antenne, devo piazzare, basta quella lì, basta quella avanza. E se vuoi fare l'amore con qualche ragazza, cosa ne sai? Magari tutti abbandonano su internet. Entrano tutti i 27, cosa vuoi fare? Io facevo la moda a cosa? A Balacchino. Io non faccio mai fatto la moda a Balacchino. Puzzinoso. Altri tempi erano a me. Lo so che erano altri tempi. I tipi non sono così malvagi, mi da mollare internet tra poco, già lo sai. La gente ormai ha già capito che con questo telefonino che va su internet ti chiamano numeri mai gestiti, cose del genere, ti chiedono cose, informazioni, ma ce la fai. Lo so, ma dappertutto così. Lo sai che ho visto su internet, Antonio? Te la ricordi la figlia di... adesso non mi ricordo come si chiama il nome, ma... del meccanico. Monica. Sì, Monica. Cazzo, tanto sei ingraziata. E se te l'ho detto, te l'ho fatta anche vedere. Però la faccia ce l'ha magra, hai visto che c'hai i zigomi incassati all'interno? Ha dimagrito, eh? Ma io sono da tanto da non avrei. Cazzo, pensate, sono al minimo 30 anni. 30 anni buoni buoni che non avrei. Sempre con quello là, Via. Tre figli ha avuto. Cazzo, bello, voleva la pena, a me e dall'altro. Cazzo, andava da una e dall'altra andava. Non te lo dico, ti voleva a me, da te e dall'altro. Aiuto, vai. Io me la ricordavo perché praticamente aveva parenti qui vicino a casa da me, però non lì, il marito. Non so chi erano parenti dalla parte del marito comunque. Allora, i parenti famosi, eccetera, eccetera, del tuo tempo che furono, ce l'aveva al centro storico e anche erano parenti con Bacchisio. Infatti usciva con la figlia di Bacchisio, se ti ricordi bene. Sì, me lo ricordo. Che un paio di volte mi sembra l'abbiamo trovati. Che gira anche tu, mi sembra che siamo andati a mangiare la pizza. Giri tu, mi sembra, tu, Arboretto. E... mi sembra che c'era, te lo ricordi una cosa? A Stile Libero, con la ragazza. Sì, me lo ricordo. Un giorno c'era, eravamo tutti assieme, c'era anche lì, anche Marchese, mi sembra che c'era. Infatti era così, sto tu dicendo. Sì, ma perché altri tempi. Altri tempi, che allora c'era quella pizzeria lì all'angolo di Via Pascoli, alla terrazza, te lo ricordi? Sì, a voi me lo ricordo. Tipi che furono quelli, oramai anni 90 era, 90 no, 90 2000, sì, una cosa del genere. Anni 90, che 2000, anni 90. Sì, va bene, anni 90, no. Siamo 23-24 anni, mi pare. Sì, io ti ho detto 30 anni. Fate il conto, allora, adesso te lo dico subito. Praticamente, avevo, quando ho iniziato, 23-22 anni. Sì, 30 anni buoni ci sono. 30 anni fa è questa studia. Che eravamo andati in quella pizzeria lì. Esatto. Se ti ricordi bene, poi una volta siamo andati a recuperare il baracchino di coso. Va fatto. Abbiamo rubato. Andrea Maricove, te lo ricordi che c'era quella che abitava lì a Santa Maria di Pisa? Sì. Siamo a ricordo Andrea pure. Da uno, ma che fine ha fatto quello lì? Quello è sposato, ha tre figli, figurati, andava lì da sempre da cose, mamma di Anita, te lo ricordi? Poi si è fatto quella lì, quella tipa del primo piano, ci aveva fatto Andrea. E cosa? Delfino? Angelo è sempre lì al monte. Da un po' che non lo vedo, l'ho visto sette anni fa, una cosa del genere. In pensione comunque. Ma abita sempre lì, giusto? Che avevamo messo anche la marca quali. No, abita al Monte, non ci abita più in Via Alghero. No, già ho capito che non sta più in Via Alghero, lo so che abitava in Via Alghero prima, lo so. Ma adesso abita al Monte, lo so, ma aveva messo anche la marca quali al Monte. Lui abita dove c'è la rotonda, dove c'è l'autoparco. Esatto, sì. No, l'aveva poi staccata, perché Giannino non voleva e cosa vuol dire, vabbè adesso magari i tempi sono cambiati, magari la richiesta pure, niente di strano. A Don Lucio voglio rientrare. No, ormai prima era bello, dai. Prima sì, c'era casino, va bene tutto, però cazzo, dai, ti divertivi. Sì, quello già lo so, prima ci divertiva. Di tutto prima, di tutto di più. Oramai ti sono cambiati. Oh, guarda, cavaga, a sempre non è mai nessuno. Dall'una al 40 non è nessuno. Sì, già lo so. Piace la gente comunque. A volte magari la gente se ne ha posti nel 27 se ne va in PML, nel TPT, a parlare. Io non è, vabbè, non stavo più seguendo perché sto seguendo a Simona adesso, capito? E quindi non avevo più tempo di fare un cazzo. È una cosa e l'altra. Figurati che avevo gli apparecchi, ho preso l'apparecchio di Bacchisio, ci ho messo quasi un mese per farlo. L'ho dovuto abbandonare perché l'ha preso a Simona. E quindi un giorno ho preso, l'ho sistemato, ho preso, l'ho chiamato, riguarda la parecchia e porto, ho detto, vieni, ritira quello che è a posto. Un altro uguale a quello che c'ha lui, che però non è 34 cane, ma bensì 261, quello ce l'ho qua a casa, ce l'ho, quello di Pino Fotebraccio. Ma finito le regole, infatti? Finito, consegnato, e lo sta anche usando. Andare. Vedo così. Ma Riccardo sta facendo un casino oggi. Sì, anche qui sta facendo caldo, la verità. Aria non è che ce ne sia molta, c'è solamente l'aria, mi è ventilato nel coso dell'alimentatore di questo apparato qua, la verità. L'altro non ho capito perché se ne va in alternata, l'altro alimentatore in trasmissione, bisogna che lo controllo, lo diamo riappreso. Non ci va bene adesso, invece devo usare per portare questo oppure la cosa, quello omologato che ho preso io, quello l'alternata non la fa. Ah, per il 2009? No, il 2009 c'era Giovanna, c'è anche con il 4000, quello mio, ce li ha tutti e due lì, ce li ha, io ce l'ho l'87 ciò. Sì, io non ce l'hai fatta, se non è tratta. Sì, l'altro giorno voleva entrare, era in ferie, voleva entrare. E tu c'è stasera entra, e tu entra, e tu attacca la prunga. E tu, perché l'apparecchio è tutto messo sopra, e tu non volevi toccare il bambino, e poi ti mandassi tutto, siccome la questione dell'ABCD è diversa dalla, capito, l'ABCD con le scuole come lettere. C'è di A, B da una parte, poi C e D dall'altra, poi fa, capito? Ce li ha separati, ce li ha, è un casino, se non tieni in mente le cose non c'è una parete, manco a sapere per cavolo sì. Sì, lo so, sono in vista. Ah, voleva andare lì da casa tua però. No, non è che hanno una casa sua, ce l'ho fatta, per dire. Io la fai io. Allora, sì. E poi tua nipote, adesso gliela... eravamo lì al bar l'altra volta, salutatemela. Sì. Cosa ha detto? E chi è? Non se ne ricorda, in pratica. Cazzo se ne ricorda, però. È la vecchiaia, arrivati qui. Oh, brutto, mamma mia. Ma come trovo la fine, mi sembra, Vantini. Yeah. Ha visto l'altro in via Rockefeller, ma quello è esaurito forte. E chi ha ancora? Roberto Bandito. Ah, ma per carità. Cazzo di tu. Ha scritto doveva partire, stava partendo. E invece il cazzo era. Tu non hai scritto, ma sei rientrato in cielo, non sei rientrato. Ma tu me la roba l'ha fatta te l'hai? No, non ho consegnato niente. Proprio niente, non ho consegnato proprio niente. Anzi, c'è un coso, mi è arrivato un messaggio da internet. Adesso devo fare questa domanda per anziani, a fare servizio di vigilanza per anziani la notte. In Viale San Pietro era la ditta. Adesso domani ci vado, chiedo a vedere cosa vogliono, se ci vuole il curriculum, se ci vuole e se pagano, perché se fa la gratis se ne vanno a casino. Ascolta me Antonio, chiedi anche per me, in caso se stanno cercando personale li do anche il mio. Vabbè, chiedo anche per te, per quello non è problema, tanto chiedo dove gli altri la chiedo. È arrivato stasera, mi è arrivato. Il numero di telefono non c'è, sono tornato, il numero di telefono avete telefonato. Hai capito? Peccato è vigilanza notturna per anziani, hai capito? E disabili. Quindi in pratica devi rimanere lì a casa loro, fare tipo bandante, una cosa del genere. Se ti pagano è bene, se no te la abbia in Napoli, perché a farlo gratis non ci vanno manco quattro. Lo dico chiaro e tondo. Lo sto facendo solo per escludere quella storia là, perché io non ce la faccio più a stare in casa, no? Senza fare niente. Preferisco stare la notte lì, ci faccio tutta la notte, poi la mattina quando esco vado mi piglio un caffè, dopodiché torno a casa, mi addormento, almeno passo l'ora, poi all'una alle due mi sveglio, mi faccio la spesa e poi vado nuovo qualcosa, almeno passo l'ora, e se no non mi basta più. Sì, ma tu devi sbagliarti un po', cazzo così, cazzo ti... invece di guardare a loro un po', cazzo guardano loro a te, a chi hai più maledetti da buca. Sì, sì, ma è per quello che lo voglio fare, in modo da sbagliarmi, hai capito? In modo da stare tranquillo, se poi fanno l'assunzione tipo ritorno a casa sono 1330 euro, hai capito, ogni mese. Che guadagni tu, quindi finché dura il vecchietto li tiri, quando crepa il vecchietto fa fanculo. Così è brutto, è brutto, una situazione molto critica. Sì, lo so, tu c'è, devo chiedere adesso e devo andare di là, in questa ditta qui c'è il numero verde. Se vuoi ti do il numero verde ci telefoni. E vabbè, Antone, io vado a fare una doccia veloce, dai. Se sei qua dopo ci sentiamo più tardi. E vabbè, io sono qua, non è quello il problema. Sono in occhi, tanto non devo uscire, quindi. Dai, ci sentiamo dopo se sei ancora qua. Dai. Che cazzo sono pure di giacca, no? Sì, ti fa la doccia, poi su di il doppio. Ma non manco un po' di rinfresca e poi mi accendo la ventola, ma che no, che cazzo pare di se vuoi la sauna. No, adesso mi accendo la ventola io, qui c'ho caldo, la verità, quindi mi accendo la ventola adesso, almeno mi pesco un pochettino e così vedo un po'. Dai, ci sentiamo dopo, quando ho finito già ti faccio chiamata se ci sei. E va bene, ok, dai, lascio qua. Guarda che c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti, che è? Non ve ne esci. Vuoi stare una portantica? Sì, va bene. Vuoi entrare, già è stato arrivato un cancun.